Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. Mi trovo a Milano e sono davanti al Cenacolo di Leonardo da Vinci. Il Cenacolo di Leonardo da Vinci è una delle pitture più famose del mondo, ma l'accessibilità a questo luogo è abbastanza complicato, perché per poterlo visitare bisogna prenotare con mesi e mesi di anticipo la propria frazione, un quarto d'ora e non di più. Quindi è una delle visite più complesse e anche più rapide che purtroppo ci vengono proposte. Ecco, allora noi utilizziamo questi nostri pochi minuti per parlare di questo bellissimo capolavoro che venne realizzato da Leonardo da Vinci alla fine del suo primo periodo milanese. Siamo proprio alle scorci del 1400. Leonardo ha fatto un po' impazzire questi poveri frati domenicani, perché per realizzare il momento in cui Cristo denuncia il tradimento di uno degli apostoli ci mise parecchi anni di preparazione. Ma quando realizzò questo dipinto risultò finito al principio del 1498, chi entrò restò a bocca aperta, perché il Cenacolo era un dipinto estremamente innovativo. Perché è estremamente innovativo? Proprio perché Leonardo cerca di fissare il momento in cui Cristo ha detto: uno di voi mi tradirà. La bocca di Cristo è ancora aperta in questo dettaglio. E che cosa provoca questa frase? Provoca una specie di molla emotiva. Gli apostoli seduti a tavola si riuniscono a tre, come se una scarica elettrica li avesse fatti muovere. Gesticolano tutti, perché noi sappiamo dai Vangeli che si domandavano l'un l'altro: ma sarò forse io? Prova a chiedergli chi è che tradirà. Leonardo realizza questo dipinto con una tecnica particolare che purtroppo genererà le difficoltà del dipinto stesso, perché non è un affresco l'ultima cena, come di solito si dice, ma una pittura murale. Cioè Leonardo, stesa una preparazione su questo muro, dipinse molto lentamente. Di solito gli affreschi bisogna farli molto velocemente. Ed ecco che questo capolavoro è sopravvissuto a stento a tutte le traversie, sia degli errori di Leonardo tecnici che i bombardamenti, le guerre, fino ai nostri giorni, e dobbiamo avere un po' di pazienza. Un quarto d'ora, respirando poco, possiamo tutti quanti andarlo a ammirare.